Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 29 giugno, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici sempre su Liberi Dentro ed Uradio TV. Io sono sempre Caterina Bombarda alla conduzione di questo programma, ma non sono mai sola perché qui con me c'è Antonella Cortese. Buongiorno. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. E dovete sapere che da domani partiamo con una novità, vero Antonella? In effetti dal 1 luglio partiamo con una novità importantissima che è il crowdfunding, che cominciamo proprio per sostenere l'attività di Eduradio TV insieme a ASP Bologna, a tanti volontari che hanno partecipato, associazioni, enti culturali, scuole, insegnanti, operatori sanitari. Insomma, teatro, ecco, il teatro non lo voglio dimenticare perché hanno fatto delle trasmissioni bellissime. Sono puntate quotidiane su 3 emittenti, come sapete. Beh, l'estate in cui c'è un forte caldo nelle carceri e c'è tanta solitudine e abbandono, beh, noi vorremmo continuare. Dateci una mano, aiutateci con un crowdfunding, partecipate collegandovi alla piattaforma www.ideaginger.it e cercate il nostro progetto che è Eduradio e TV. Perfetto, fatelo e nel frattempo vi racconto un po' di rassegna sociale dal carcere. Leggo da Milano, dall'omicidio alla laurea in filosofia, quando il carcere ti cambia in meglio, a cura di Lorenzo Zacchetti su affariitaliani.it, perché ha discusso la tesi, il primo detenuto inserito nella convenzione tra il carcere di Bollate e l'Università Statale di Milano, che questo è proprio un esempio per chi anche vuole cambiare vita e darsi da fare mentre sconta la pena in prigione. Ed è la storia di Jay, che è un albanese, tuttora detenuto, che da un duplice omicidio particolarmente efferato in un regolamento conti legato al traffico di droga, ora è arrivato a ottenere invece la laurea in filosofia. La sua esperienza smentisce un po' tutti i luoghi comuni sul fatto che dalla criminalità organizzata non si possa mai uscire e che il carcere abbia solo una funzione punitiva, invece una funzione anche rieducativa, infatti Jay ce la sta facendo. Questo è un esempio fondamentale perché c'è anche una possibilità che è questa, ma vorrei sapere qual è stata la sua particolare condizione che in effetti gli ha permesso di fare questo passo avanti. Ma effettivamente Jay si dice molto fortunato anche per le condizioni buone che ha avuto. Lui racconta che quando è entrato in carcere era giovanissimo, aveva solo 29 anni e poi è riuscito a interessarsi, grazie all'incontro in carcere con una scolaresca di Macerata, i discorsi di filosofia lo hanno talmente appassionato e poi gli è stato anche regalato un libro, pensate, l'Apologia di Socrate di Platone, e così si è iscritto all'università e ha cominciato a studiare. Senti Caterina, ma com'è stato possibile il suo percorso per poi arrivare alla laurea? Ma allora, già 3 anni fa lui aveva conseguito la laurea breve e poi, grazie alla convenzione tra il carcere Bollate e l'Università Statale di Milano, fortemente voluta dal professor Stefano Simonetta, che è anche autore del libro Utopia e Carcere, e che ha incontrato anche Jay e la sua storia, è riuscito poi a intraprendere gli studi universitari. Ha detto di lui Stefano Simonetta: si può ben dire che Jay sia stato il nostro paziente zero. Il suo racconto su quanto fosse difficile studiare in carcere, attendendo anche 3 mesi per avere i libri necessari, mi ha spinto a creare un percorso per chi volesse cogliere l'occasione della detenzione per provare a cambiare vita. Ma quando gli si chiede invece a Jay se questa esperienza lo abbia effettivamente cambiato, sentite cosa risponde: io non sono cambiato per nulla, ma ho cambiato la mia visione del mondo, osservando la vita da un punto di vista diverso. Ho scoperto di avere delle capacità diverse da quelle che pensavo, ma le avevo già prima, solo che prima impiegavo la mia energia per fare altre cose sbagliate. Quindi il fatto che il paziente zero sia arrivato a laurearsi è certamente un messaggio molto molto forte anche per le altre persone detenute e non solo anche, che stanno accogliendo la possibilità offerta dalla convenzione tra carcere e università, che ricordiamo oggi vanta 100 iscritti, e quindi speriamo che ci siano sempre più iscritti e che apra più possibile vie di studio e anche di lavoro. Caterina, Mick Jagger, Rolling Stones, ma che cosa ci fai ascoltare oggi? Vi faccio ascoltare Jumping Jack Flash, un brano che non ha bisogno di presentazioni, è tra le più popolari canzoni del gruppo, infatti viene suonata regolarmente a ogni concerto, e nonostante apparve solo come un singolo, fu incluso anche in molte raccolte. Quando è uscita nel 1968 è stata salutata come un ritorno, pensa te, alle origini blues di questo gruppo. Ascoltiamola. E rieccoci, bentornati sulle note dei Rolling Stones. Siamo con te, Antonella, per parlare di cultura e ci parli di Metà di un sole giallo, un bel libro? Sì, è un bellissimo romanzo scritto da Chimamanda Ngozi Adichie, che è una scrittrice bravissima, secondo me, e poi tra l'altro ultimamente ha lanciato contro le persone che usano le piattaforme social come armi, proprio perché l'hanno attaccata in tutti i modi, ogni cosa che dice viene, diciamo, un po' strumentalizzata, e ha mosso proprio un appello affinché questo modo di approcciarsi ai social venga un po' ridimensionato. Ma non vi volevo parlare di questo in realtà, volevo parlarvi di questo meraviglioso libro che è abbastanza corposo perché sono 450 pagine, pubblicato nel 2006 e tradotto da una bravissima traduttrice che si chiama Susanna Basso. Ha vinto tantissimi premi, ve lo dico perché è un libro che è famoso e quindi ha avuto grandi riconoscimenti, dal Premio Internazionale Nonino, il Premio Speciale Afriche e poi uno scrittore africano, famoso, considerato il padre della letteratura moderna nigeriano, che si chiama Chinua Achebe, l'ha definita una scrittrice con il talento degli antichi cantastorie. E di che cosa parla questo romanzo? È molto bello perché ha un po' il fascino del romanzo storico, ci teletrasporta nella Nigeria degli anni 60 e le vicende della guerra civile tra Nigeria e Biafra. Parliamo del 1967-1970, che sono un po' lo sfondo sul quale si avvicendano i personaggi delineati in modo molto sapiente e molto diversi tra loro, quasi a tratteggiare le diverse anime dell'Africa in un momento di profonda trasformazione. Abbiamo due personaggi principali, Olanna e Keinene, che sono gemelle che non si somigliano per niente, e che però rappresentano un po' le due facce di una stessa medaglia. La prima è bellissima, sensibile, dalla forza inesauribile, mentre la seconda, risoluta, spigolosa e scaltra manager di successo, la cui cifra distintiva è proprio il sarcasmo. Ci sono tanti elementi interessanti in questo libro, l'idealismo del panafricanista professor Odenigmo e poi anche l'Africa archetipa dello studioso bianco Richard, che sposerà la causa del Biafra libero. Ma la cosa più bella, Caterina, è come si apre la narrazione, perché si apre con il tredicenne Ubu, che lascia il suo villaggio per diventare domestico di Odenigbo. E la sua scoperta dell'esistenza di un altro mondo, quello del progresso, dell'emancipazione, dell'acqua corrente, del frigorifero, della lettura anche, perché imparerà a leggere e a scrivere, della musica, lo rendono un personaggio del quale il lettore si prende immediatamente cura. Insomma, lo adottiamo immediatamente. Ma è soprattutto la politica che quotidianamente viene ascoltata alla radio, che batte un po' il tempo, che viene discussa continuamente da Odenigbo insieme a tutti i suoi amici intellettuali di Nsukka, la città universitaria in cui vivono. Poi a un certo punto tutto precipita. La guerra di secessione esplode, ridefinisce confini, ruoli, gli scontri tra le due etnie principali, Igbo e Hausa, diventano sempre più cruenti, così come la fame, l'abbruttimento dell'essere umano, gli intrighi internazionali, i legami vengono messi a dura prova e il nuovo collide con il vecchio. È una situazione veramente di grande confusione, di grande instabilità. Il Biafra libero poi diventa un'utopia e chi non partecipa alla costruzione del sogno è considerato un sabotatore e ne paga le conseguenze. È proprio in questa condizione che amori, tradimenti assumono un valore completamente diverso, perché, come dice Keinene, una delle due protagoniste, una delle due gemelle, ci sono cose talmente imperdonabili da rendere perdonabile tutto il resto. Quindi per leggere questo romanzo storico, insomma, La metà di un sole giallo, anche il titolo a cosa si rifà? La metà di un sole giallo era presente nella bandiera a bande orizzontale rossa, nera e verde della Repubblica del Biafra, uno stato che è esistito solo 3 anni e riconosciuto tra l'altro da pochissime nazioni. Però Caterina, più che un romanzo storico, diciamo che è un omaggio alla memoria, come scrive l'autrice stessa nella nota finale. Infatti scrive con l'auspicio di non dimenticare mai. Grazie Antonella, e lancia la tua playlist con la nostra Fatumata. Ancora Fatunata Diawara, che dall'album Fenfo ci presenta Kokoro. Ascoltiamolo. Thank you so much, Kokoro, my Africa. Thank you. Everybody, Mama Africa, hakokalau so demi demo, more bahasa anebe mama, more bahasa mama Africa, hakokalau so demi demo, more bahasa. Oggi continuiamo la nostra intervista insieme a Denza Negroni, la regista del film La prima meta. Via con la pillola. Sì, no, io volevo fare una domanda che di solito poniamo quasi sempre a tutte le persone che intervistiamo in questo ambito, e volevo chiederti nello specifico cosa diresti a un cittadino scettico che magari pensa che queste attività sportive, come può essere appunto il rugby, non dovrebbero essere concesse alle persone detenute. Ma innanzitutto spendersi in questa attività vuol dire fare un'attività di gruppo. Il rugby in questo caso crea proprio un gruppo molto coeso e quindi tanti, diciamo, momenti di aggregazione sociale che in carcere non sono sempre così evidenti. Con il rugby, appartenendo a una squadra, al Giallo d'Ozza, loro possono veramente condividere in un gruppo molto ampio, una trentina di ragazzi, li fa stare insieme e li fa comunque unire tutti insieme in un solo progetto, cioè vincere le partite, allenarsi, e questa, diciamo, è la parte che secondo me è più straordinaria, nel senso che non sei solo un individuo all'interno di una realtà, ma sei un gruppo, e questo è, diciamo, la parte più, così, più sociale, socializzante, diciamo, perché comunque anche non solo si parla di rugby e di partite durante gli allenamenti o durante le partite, ma se ne parla anche fuori, quindi negli altri momenti che loro hanno, e hanno una loro divisione speciale, quindi vanno insieme, dormono insieme. E questo, il fatto di raccontare questo spostamento dove stavano tutti dislocati in ambienti della Dozza diversi, ma metterli tutti insieme, anche quello ha portato una coesione anche maggiore. Quindi diciamo che è un progetto proprio che tende a fare un gruppo coeso, che in questo caso è la squadra. Adesso invece è il momento di un breve stacco musicale. Torniamo prestissimo. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. On the upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly, hefty bag of home-mine love. When you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me the way you do me. Sempre dal punto di vista della tua esperienza, della tua sensibilità verso queste tematiche, verso la città di Bologna, cosa diresti tu a uno di quei cittadini, per convincere del contrario, che pensa che bisogna buttar via la chiave sostanzialmente? Dico di entrare in qualche modo in contatto con questa realtà prima di giudicarla, perché i pregiudizi purtroppo sono molto spesso sbagliati. E invece avere la possibilità di entrare in un progetto, fare il volontario o comunque anche andare ad assistere il coro Papageno, è possibile una all'anno andare a assistere al concerto attraverso l'associazione Mozart 14 e entrare in contatto con questa realtà. A quel punto, conoscendola, non la disprezzi più e non hai neanche più paura. E la difficoltà è far conoscere questi progetti a tutta la cittadinanza e poi farli anche entrare dentro il carcere. Questa sarebbe, diciamo, la grande sfida, no? Aprire il carcere alla città in modo tale che si possa mantenere dei rapporti con anche persone che non conosci, ma che puoi conoscere o puoi apprezzare per quello che fanno. Anche il teatro, fanno degli spettacoli bellissimi alla Dozza. E quindi è questa l'idea, cioè di aprire l'auditorium e poi farci più eventi possibili in modo tale che anche le giovani generazioni, specialmente anche i giovani, possano conoscere questa realtà e se hanno delle idee sbagliate nei confronti di questa realtà, di queste persone che ci vivono, cambiare. Ultima domanda che vorremmo farti di chiusura è se tu hai dei nuovi progetti per il futuro prossimo, o comunque che tipo di progetti hai per la tua carriera, e se hai delle idee sempre in ambito sociale, a livello di film documentario da sviluppare, oppure... perché comunque è un momento difficile per tutti, immagino, anche per appunto il cinema e la creatività, l'arte di quel tipo. Finché la pandemia non ci lascia un po' in pace, sarà difficile un po' programmare in generale, però così te lo chiediamo se hai dei programmi, delle prospettive da questo punto di vista. Sì, io mi occupo anche di musica, di progetti, di documentari musicali, quindi alterno progetti magari sociali a progetti musicali. E in questo caso ho raccontato la città di Berlino, del muro di Berlino e il cambiamento della città con un documentario con Manuel Agnelli. E poi adesso sto lavorando invece a un gruppo di vecchi orchestrali che hanno nella città di Bologna raccontato il jazz e anche la musica, diciamo, non da balera, però la musica di intrattenimento negli anni 60. Quindi in questo momento sto lavorando a un progetto musicale e alterno, diciamo. Quindi spero nel 2021-22 di riapprocciarmi a invece un progetto diverso, sempre ritorno, diciamo, alle tematiche sociali. Anche per oggi il nostro intervento termina qui. Torneremo presto con nuovi aggiornamenti da chi vive, per chi vive il carcere. Se avete qualsiasi domanda potete scriverci su Facebook o su Instagram al canale Liberi Dentro Eduradio. A presto, ciao a tutti! E rieccovi, grazie alle pillole promosse da ASP, Città di Bologna, insieme a Lorenzo e a Simone Resca. Noi vi aspettiamo tra poco con le nostre rubriche. Oggi abbiamo Uomini e Storie a cura della redazione Eduradio da Parma. E vi ricordo sempre, se potete, ci date veramente una mano fino alla fine di luglio di sostenerci col nostro progetto di crowdfunding. Lo trovate su www.ideaginger.it e il nostro progetto si chiama Eduradio e TV. E grazie, alla prossima, sempre redazione Liberi Dentro, @gmail.com per scriverci, oppure Chiesa Santissima Annunziata via Samamolo 2 per mandarci la vostra posta. Un ringraziamento speciale ad Antonella Cortese, sempre qui con me in redazione, e ovviamente al nostro Pasquale Fintagnello al montaggio di queste puntate. Buona giornata a tutti e a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.